Slim Shady, please stand up. We're gonna have a problem here. Impongono di andare a recuperare a bordo della Guardia Costiera della Marina Militare, molto semplice e molto personale, personalità del mondo economico e istituzionale, etica della responsabilità. L'Europa vi boccerà la stabilità, scommessa sulle paure delle persone, mandandoli a casa con la prossima elezione. Etica della responsabilità, la sanità di difficoltà, perché l'immunità diventano anche amici, chi lo sa. Siamo al tempo in cui uno si mette in macchina e arriva a... E hanno una FIFA matta di perdere le loro poltrone, mette in votazione che quando c'è una questione come l'immigrazione e il terrore, Grillo e Salvini siamo sulla stessa posizione, e per cambiare passo anche in questa direzione a questa riduzione corrisponderà una semplificazione. Statuto dell'opposizione, che si scambiavano le poltrone da 1 miliardo di persone. Nei prossimi 20 anni il mondo cambierà, per chiedere alle università è il tentativo di ridare alla politica dignità. E la sinistra e viceversa. 3 anni dopo l'approvazione della Costituzione, e questa riduzione da sempre era a favore, e uno fa un procedimento di popolare, oggi il Parlamento se ne può fregare. Buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, go how to Paul Berry. Radio Bomba. This is Radio Bomba. Eccoci. Questa è Radio Wombat, queste fuori polveri, questo è Bricobaldo e Glande Lago. E questo Lago. È Lago. Oh, Glande Lago. 83esima puntata, come? 83esima puntata, come Tuco, che doveva dircelo, invece non ce l'ha detto perché è a lavorare. Tuco con questo Tuco, lavorare, sempre Tuco. A lavorare, basta. Sì, Tuco è sempre a lavorare, passato effettivamente, però è un bravo guaglione, Tuco, perché guaglione. Nonostante lavori ci manda sempre un 83, sacco di contenuti. Ce l'ho, 83 come dai. Gli 83 trentini. 83 30, secondo me come l'anno di nascita di Zero Calcare. Ah, vabbè. Potrei aver detto anche una cazzata, boh, chi lo sa, va bene. Tanto di cazzate, insomma, ci siamo abituati. Vabbè, chi se ne frega. Benvenuti appunto alla nuova puntata di Fuoco alle Polveri. Un sacco di cosette, Bricco, cosa c'è? Cosa allora, oggi è interessantissimo perché abbiamo qui accanto a noi un compagno del collettivo Cosmos, il collettivo del Castelnuovo, ci racconterà che cosa affrontano nella loro scuola e soprattutto in vista del corteo studentesco di questo sabato alle 9 Piazza San Marco. Avremo tempo per parlarne più approfonditamente. Abbiamo un'intervista ai compagni e alle compagne di Entrelazando che abbiamo già sentito, fra l'altro, che abbiamo già sentito, sì, abbiamo già anche trasmesso. Svolgono un lavoro in tutto il Sud America e poi lo portano fuori anche in Europa, infatti attualmente sono in Portogallo. Noi li abbiamo chiamati, li abbiamo intervistati, faremo sentire un piccolo spezzone, poi caricheremo l'intera intervista in podcast, la potrete riascoltare di quasi un'ora, molto interessante, molto interessante. Sì. Si parlerà tendenzialmente di quello che è accaduto e in parte continua ancora a accadere in Colombia all'inizio del millennio, nel primo decennio del millennio, soprattutto la questione dei falsi positivi, cioè persone a un certo punto sono sparite senza un motivo ben preciso. Finiremo con la rubrichetta nostra canonica con Yuri, l'urlo dei Balcani. È proprio vero. E poi si finisce presto perché ormai, come sapete, già abbiamo accorciato i tempi. Sì, solo un'oretta con noi, non più 2 ore. Così ce l'avviamo meglio, probabilmente. Siano che voi. E siamo più freschi. Direi subito canzoncina e torniamo fra pochi minuti su Radio Wombat, Fuoco alle Polveri. Vai. Power, political And the attitude of a population. Don't trust the news information that you're watching. You're rotten, trying to mislead the nation. We the people ain't treated equal. Their procedures so illegal. Political laws, political wars. Time to close the political doors. World power is what they want to claim. Financial power is the aim to claim. While the people starving, people crying, people robbing, people dying. Unbelievable, unbearable. Here is what we gotta do. Unite with each other. Yes, we can. With the kingdom's son. Yes, hand to hand. Power, political this, nothing's gonna happen, it's the same old sh- political power, political this, nothing's gonna happen, it's the same old sh- power, power to the people, power, power to the people, power, power to the people, power, power, power to the people. Le scuole crollano, noi no. Corteo studentesco alle ore 9, sabato 9 febbraio, in piazza Santa Maria Novella. Ne parliamo con Santiago del collettivo Cosmos. Ciao. Ciao. Benvenuto al microfono di Radio Wombat. Partiamo proprio da qui, dal corteo studentesco. Intanto chi aderisce, chi lo lancia e perché manifestate? Ah, diciamo è lanciato e ci sono diverse realtà che aderiscono. E principalmente sono la rete dei collettivi fiorentini, il collettivo politico di scienze politiche, il fronte della gioventù comunista, e poi parteciperanno appunto anche altre diverse realtà fiorentine, verranno studenti da Livorno, da Pisa, insomma da altre città della Toscana e probabilmente anche da Mondeggi. Benissimo, e le motivazioni? Allora, le motivazioni sono, diciamo, delle rivendicazioni che stanno avendo portate avanti negli ultimi tempi a Firenze dalla rete, ma anche da, insomma, da diverse realtà. Sono motivazioni, direi, parecchio importanti, temi molto sentiti ultimamente, che sono principalmente quello dell'edilizia scolastica, perché in tutta Firenze le scuole sono fatiscenti, cascano a pezzi. Ora faccio un esempio: a scuola mia ci sono le porte dei bagni che o per esempio proprio non ci sono, o al limite se uno si chiude in bagno non riesce ad uscire perché la maniglia, la serratura non funziona e rimane bloccato in bagno. O a volte va spostata la porta e non ci sono più cardini. In altre scuole cascano i tetti, cascano le lampade. Nel caso di Agraria, se non mi sbaglio. Sì, ad Agraria sempre è cascato il tetto. Al Gramsci delle lampade a neon sono cascate su un banco. Per fortuna non c'erano gli studenti, però insomma sono cose, direi, abbastanza gravi. Al Caponi, per dire, il riscaldamento in interi piani non funziona. O non hanno gli infissi alle finestre, quindi i ragazzi muoiono di freddo nelle aule. Non c'è acqua nei rubinetti, appunto. Insomma, la situazione è grave, è pesante. E altre motivazioni sono sempre connesse a questo, in realtà, insomma, sono quelle sui temi della repressione, nel senso che i soldi che vengono tagliati dalle scuole, che dovevano essere destinati alle strutture a mantenere, insomma, le scuole, vengono invece destinati a quelli che sono tutti gli organi, apparati repressivi, quelli che possono essere telecamere fuori dalle scuole. In realtà adesso vorrebbero metterle anche dentro, speriamo di no. Comunque, telecamere, poliziotti della cinofila con i cani che vengono fatti entrare a insaputa degli studenti. Quindi tutti quelli sono i meccanismi repressivi, diciamo, che il governo attuale sta portando avanti. Ho visto che citate anche le spese militari fra le altre cose. Sì, nel senso che appunto forze dell'ordine, i militari sono principalmente, come posso dire, dove vengono destinati la maggior parte dei fondi che sarebbero dovuti andare alle scuole. Per esempio, che ne so, con una delle ultime riforme, insomma, sono stati tagliati altri 14 milioni e per darne, mi pare, 3 alle forze dell'ordine. Quello stesso giorno un ragazzo a Catania è morto perché il defibrillatore della sua scuola non funzionava. Ecco là, perfetto. Belle notizie che ci danno. E senti, ma nello specifico poi della vostra scuola, andando un po' a analizzare, intanto voi avete il Castelnuovo è un liceo scientifico, giusto? Sì. Liceo scientifico diviso in due sedi, se non mi sbaglio, c'è una sede e una succursale. Esatto, una in via della Marmora e una in via della Colonna. Che condizioni sono queste due strutture? E insomma, diciamo che per quanto magari rispetto ad altre scuole in cui c'è l'amianto o in cui appunto il trattamento non funziona, è messo un po' meglio, ma questo non giustifica per esempio il fatto, appunto, come dicevo, che uno si chiude in bagno, cioè chiude la porta e rimane bloccato per tutta l'ora perché non può chiamare i compagni che sono a fare lezione, che o si arrampica o è bloccato dentro perché la serratura non funziona, la maglia non funziona, per dire. Oppure, cosa direi questa ben più grave, i laboratori in un liceo scientifico, quindi dove dovrebbero essere, diciamo, una parte importante della scuola, sono a norma per un numero di persone che è, prima erano 15, adesso mi sembra sia 24, però ci sono classi di 30 ragazzi. Quindi potenzialmente, poi caso succedesse qualcosa, diciamo, 6 di questi ragazzi potrebbero starci secchi, ecco. C'è differenza nella qualità della didattica fra la sede e la succursale? Fortunatamente a scuola nostra in realtà non più di tanto che io sappia. Comunque diversi professori in realtà alla fine si muovono tra le due sedi, cioè tra la sede e la succursale. E no, vabbè, quello che è successo un po' negli anni, ma ora sta andando, come posso dire, a sparire, è stato un po' il rapporto tra l'indirizzo tradizionale e le scienze applicate. Cioè all'inizio i professori che insegnavano le scienze applicate, cioè il corso, per esempio quello che faccio io, dove non c'è il latino, c'è informatica e un'ora in più di scienze al posto del latino, per dire. All'inizio i professori che andavano lì erano soltanto quelli che erano fuori col corso, perché gli altri appunto non si rifiutavano di insegnare lì, o che ne so, tuttora diversi professori lo considerano come il corso un po' più semplice, il corso un po' più sfigato? Non più sfigato, ma dove ci va la gente che non c'ha voglia di studiare, diciamo. Ah, okay. Cioè, diciamo che questa cosa non viene, formalmente non viene mai fuori, anche l'open day viene detto, bellino e tutto, però magari ci sono, insomma, quello che ogni tanto gira nelle classi, così, ecco. Cioè, ora appunto, per fortuna sta andando a diminuire questa cosa, ecco. Però è stata sentita un po' negli anni. Ora sono 5-6 anni che ci sono le scienze applicate, quindi si sta diventando abbastanza normale, almeno sotto questo punto di vista, la situazione. Bene, invece le attività del Cosmos, del collettivo, che attività portate avanti? Ma allora, quest'anno abbiamo fatto un lavoro, diciamo, di tentativo di coinvolgere gli studenti in quelle che sono le problematiche della nostra scuola, principalmente quella dell'edilizia, ma anche quelle, per esempio, dei corsi, cioè di una sezione a pagamento che c'è, che sembra assurdo, ma c'è davvero una sezione a pagamento. Incredibile, sembra. Spiegaci un po' nei dettagli come funziona questa cosa. Praticamente c'è una sezione, è stata inaugurata quest'anno, dove vengono fatte alcune ore di alcune materie in inglese, e credo che vengano fatte anche qualche ora in più. Diciamo che tutto sommato è quello che si può considerare un'istruzione migliore, nel senso che uno esce da lì, ha fatto ore in più di scuola e soprattutto alcune ore le ha fatte in inglese, che è una cosa, diciamo, utile. Il problema di questo corso è che non è accessibile a tutti, o meglio, formalmente lo è, perché dicono con la dichiarazione ISEE tutti possono accederci, sì, però c'è una quota. Ora, anche questo, in realtà la quota è quasi irrisoria, è molto bassa, sono, mi sembra, 200 euro, ma concettualmente è quanto più sbagliato ci possa essere che in una scuola pubblica un corso di studi migliore sia a pagamento, perché non è più neanche una scuola pubblica, è davvero assurdo. E era una delle cose su cui abbiamo lavorato quest'anno come collettivo, perché alla fine è venuta fuori quest'anno questa sezione. Ecco, sì, concordo, è una cosa veramente incredibile questa qua. E avete avuto degli eventi, ho visto un evento, era proprio sabato scorso, presso gli spazi della Polveriera, era più incentrato sul tema della repressione. Sì. Quindi immagino che questo sia un altro dei temi che voi affrontate. Sì, abbiamo avuto in Polveriera sabato scorso un incontro con l'associazione ACAD, che è l'associazione contro gli abusi in divisa. E è stata fatta una bella assemblea, è stato chiamato il relatore che ha parlato del caso Magherini in particolare, ma in generale di quello che sono gli abusi in divisa, di quello che può essere tutto l'apparato, quello che alla fine è il sistema marcio che difende i poliziotti che picchiano. E soprattutto abbiamo parlato di quello che del concetto che non sono i singoli poliziotti le mele marce, ma che è tutto un sistema che c'è dietro e li protegge, che non va bene. Io faccio sempre un esempio, ma quando c'è un melo che fa 100 mele e ne fa 97 marce e 3 invece sono buone, che cosa c'è da pensare? Beh, che... Da sega all'albero, forse. Forse andrebbe. Esatto. Gli alberi non si toccano. Gli alberi non si toccano, è vero. Sono d'accordo. Si può comunque pensare di cercare di isolare quelle tre mele e di far sì che poi guarisca anche tutto il resto. Certo è che questo non spetta a noi. Noi spetta a denunciare ciò che viene fatto, non solo a noi, ma hai citato ACAD, Abusi in Divisa, l'associazione contro gli abusi in divisa, che svolgono un eccellente lavoro da anni a questa parte. Hanno appena pubblicato, lo trovate scaricabile, il Vlad Vademecum per l'autodifesa legale, lo trovate sul loro sito, scaricabile tranquillamente. È un bel malloppo molto dettagliato. Sì, tra l'altro ora mi volevo ricollegare un attimo con questa cosa di ACAD a una cosa abbastanza grave. Prego. Successa a scuola nostra, cioè che è stato fatto il forum, no? giovedì, venerdì e sabato scorso è stato fatto il forum a scuola, e un'assemblea che avevamo proposto come collettivo era appunto un'assemblea sul caso Magherini, quindi non contro i poliziotti, ma un'assemblea sul caso Magherini, e volevamo invitare a parlare appunto ACAD. L'assemblea è stata rifiutata con la motivazione che il disegno nell'adesivo di ACAD è offensivo verso le forze dell'ordine, semplicemente perché nell'adesivo c'è un poliziotto raffigurato come un mastino con dei bambini che cercano di fermarlo, e praticamente con questa motivazione hanno evitato che a scuola nostra si parlasse di temi, come possiamo dire, che loro definiscono controversi, ecco. Ma è controverso. Certo, ma, infatti certo. Nei temi controversi non bisogna parlarne, perché così rimangono controversi. Esatto. Effettivamente è un ragionamento che non fa una piega. Senti, hai citato il forum, poi ci spiegherai meglio di che cosa si tratta, perché io ormai non vo' più alle scuole superiori da un bel po', grande lago purtroppo. Purtroppo, quindi poi magari ce lo spieghi, ai nostri tempi non esisteva. Prima vorrei farti una domanda che riguarda le rappresentanze, se voi avete rappresentanti in consiglio d'istituto. Purtroppo no, ci abbiamo provato quest'anno, anche l'anno, insomma, praticamente tutti gli anni ci proviamo, ma quest'anno non abbiamo rappresentanti. Com'è possibile, visto che comunque il vostro collettivo è abbastanza partecipato? Sì, diciamo che la situazione a scuola nostra però non è proprio delle migliori. Magari in sede, dove il collettivo è stato più forte negli ultimi anni, abbiamo anche l'appoggio di buona parte di quest'anno, quelle che quest'anno erano le quinte. Però, per esempio, in succursale, che è, diciamo, lontana dalla sede, lontana come eventi, ma quello che succede, per dire, del collettivo gliene importa veramente a pochi. E il problema è che nella succursale sono la maggior parte delle persone. E magari poi in sede, essendo meno della metà di quelle che sono in succursale, si conoscono un po' tutti, le cose girano. In succursale è molto più difficile. Ecco, ma i rappresentanti che avete al consiglio dell'istituto, che avete, che non sono i vostri rappresentanti, cioè non sono rappresentanti del collettivo, come riescono a arrivare al consenso, a essere votati da tutti, allora, i vostri compagni e compagne? Sì, diciamo che due di loro si possono definire dei pottini, sicché vengono votati da tutta quella che è appunto purtroppo la gran parte del Castelnuovo, che sono, insomma, pottini, gliene frega il giusto di quello che possono essere argomenti politici, ma quando loro propongono, che ne so, la festa al Blue Velvet, al Blanco, non so dove, sono già tutti contenti. O quando quando propongono le magliette del Castelnuovo, cioè le felpe del Castelnuovo, come certo. se fosse una cosa da esibire. Oh, sì, è una questione di immagine, fondamentalmente. Sì, che poi tra l'altro qua mi riallaccio. Ma guarda, mi ricorda un po' qualcosa questa situazione. Cosa? Un po', se la estendi un po' a livello anche nazionale, se vuoi, ci ritrovo delle similitudini. Sì, però ecco, volevo dire, è venuto fuori nei giorni scorsi una cosa, direi, agghiacciante su queste felpe e magliette. Cioè, siamo venuti a sapere, nello scorso fine settimana, mi pare, che sono prodotte da una multinazionale, si chiama Gildan, che è un'enorme multinazionale canadese, che ha già diversi precedenti legali per aver licenziato, per esempio, lavoratori che si erano uniti in che ne so, unione di lavoratori, in sindacati, così, per averli licenziati in tronco o per avere salari che non permettono di vivere, praticamente. Buono, però questa mi sembra una cosa un po' controversa, forse non dovremmo parlarne. Forse non dovremmo parlarne, anche perché poi c'è un'ulteriore controversia, ma ve la dirò dopo perché c'entra poco con l'intervista. Nel frattempo, intanto volevo appunto tornare sulla questione del forum. Perché che cos'è il forum e che cos'è che viene proposto all'interno del forum, ma soprattutto come, cioè attraverso quali meccanismi? Sì, ecco, diciamo che il forum è quello che negli anni purtroppo è andato a sostituire le occupazioni, praticamente. È la scappatoia legale con cui i presidi hanno evitato che le scuole venissero occupate negli anni, e sono tre giorni in cui, tre a volte di più, a volte di meno, insomma, tre giorni in cui gli studenti possono proporre delle assemblee, dei film o dei dibattiti che vengono fatti nelle varie aule della scuola. Quindi non c'è lezione, ci sono queste assemblee, diciamo, viene scelto un tema centrale, ma in realtà è un tema da molto chi viene spesso scelto? E allora viene scelto da quello che è il gruppo forum, però ecco, l'unico punto a favore si può dire, in realtà, è, diciamo, spezzo una lancia fuori di questa cosa, è che è talmente vago spesso che ci può rientrare più o meno qualunque argomento. Ecco, sì, no, ma quello che volevo dire io, il gruppo forum da che persone è, è problema composto? Esatto, sta proprio lì. Il gruppo forum in teoria è composto da chi ci vuole andare. Però bisogna sempre tenere in conto che intanto ci sono tutti e quattro i rappresentanti di istituto che, insomma, come si diceva prima, non sono proprio dalla parte del collettivo, ecco. Sono molto più dalla parte della presidenza. E soprattutto, anche se nel gruppo forum ci può andare teoricamente chi vuole, poi in realtà le assemblee non sono decise dal gruppo forum. Il gruppo forum le propone e basta. Poi vengono votate o discusse in consiglio istituto, dove quindi ci sono invece la preside e i professori. Quindi in realtà di studentesco il forum ha ben poco, perché la decisione ultima aspetta alla preside. Ecco, tanto meno per voi che non avete rappresentanze. Quindi ecco, ancora di meno, esatto. Quindi la domanda è, ma queste rappresentanze, ma secondo voi, ma servono a qualcosa o no? Ma allora, queste qua... Domanda difficile, non so se vuoi rispondere a titolo personale o a titolo del collettivo. Allora, vediamo, in collettivo diciamo che le rappresentanze che ci sono quest'anno a noi non è che non servono, per noi sono veramente un danno. A parte, io penso siano un danno in realtà anche per gli altri studenti, perché alla fine quello che fanno, appunto, si diceva, è proporre le feste al Blanco, le magliette del Castelnuovo, sicché non si impegnano. Grande attività politico-culturale, ecco. Effettivamente. Sì, quindi sono, diciamo, un danno, a parte per noi, perché veramente... Poi al Blanco, ma fa schifo il Blanco, scusa, ma... Fra l'altro. Cioè... Boh, io non ci sono veramente neanche mai stato. No, perché... io ci passavo fuori, e fra l'altro è quello, se non mi sbaglio, vicino alla stazione dei Rifredi. No, il Blanco... No, forse mi sbaglio. Vabbè, ma chi se ne frega? Vabbè, comunque, laggiù, se ne frega. Insomma, un posto così, ecco, da Puttini, ecco. No, comunque si diceva... Appunto, sì, che queste rappresentanze, a parte essere un danno per gli studenti, veramente a noi ci impediscono di viverci la scuola come collettivo, praticamente, ma impediscono agli studenti di viversi la scuola, cioè, perché alla fine vanno contro quello che può essere qualunque assemblea pomeridiana, progetto, iniziativa, che sia minimamente proposta da noi come collettivo o che vada fuori da quelli che sono gli schemi, diciamo, dettami della presidenza, praticamente. Sembra tanto un biscottino dato alle persone per farle star buone, questo qua. questo qua del forum e di conseguenza anche delle rappresentanze. Ma ti ripeto, non mi sembra che sia molto diverso dal contesto generale. Senti, invece la questione degli spazi, avete spazi dove poter fare attività? Ma diciamo che ne avevamo fino al dicembre scorso. A dicembre, per provare a portare avanti queste nostre rivendicazioni con quella che poteva essere una protesta un po' più forte, un po' più visibile, che speravamo avesse qualche effetto, visto che le assemblee pomeridiane appunto o non vengono fatte o veramente, grazie ai nostri rappresentanti, non hanno veramente alcun effetto. Noi abbiamo tentato dicembre scorso di occupare la scuola. Purtroppo la nostra occupazione è fallita la mattina stessa, ma ora non è su quello che mi volevo soffermare, ma quanto sul fatto che, guarda caso, proprio dopo l'occupazione l'aula autogestita ci è stata tolta, con la motivazione che, essendo al terzo piano, non c'era sicurezza perché un custode non poteva stare lì e non poteva garantire la nostra sicurezza. A me viene in mente un po' il contrario, forse, che la preside non poteva garantire la sua sicurezza, nel senso che aveva paura che, che vi mettesse lì tutti insieme a parlare di qualcosa e non gli andesse bene, magari. Che il pericolosissimo collettivo Cosmos fabbricasse bombe carta in aula autogestita, come fa sempre, fra l'altro, famoso rinomato nel mondo per costruire bombe carta, esatto, e non solo. Insomma, però in quest'aula il giornalino continua a riunirsi, quindi alla fine gli unici che per motivi di sicurezza non ci si possono più riunire sono quelli del collettivo. Sobillatori. Sì, quando l'abbiamo chiesto ci è stato detto: no, ma il giornalino ha tutte le sue cose lì, anche noi abbiamo tutte le nostre cose lì. E poi ci è stato detto addirittura che non sapevano che ci riunivamo lì, quando in realtà ogni mercoledì firmavamo su un foglio con scritto l'aula in cui ci riunivamo. Per di più, anche non ci fosse stato dialogo tra i custodi e la presidenza, insomma, 20 ragazzi che ogni mercoledì per 5 anni si riuniscono nella stanza che è praticamente sopra la presidenza, forse se ne potrebbe anche accorgere, ecco, la presidenza. Sì, vabbè, prosciutto sugli occhi e poco. Ma e questo vabbè, ora tutta la questione dell'occupazione è molto particolare, sì. Penso che da questa cosa avrete imparato tante cose. Sì, e vabbè, diciamo... Soprattutto la gestione logistica, vero? Sì. Senza scendere nei dettagli. Senza scendere nei dettagli, sì, esatto. La cosa è molto pratica e immediata. Poi sì. Agli ascoltatori e alle ascoltatrici glielo spiegheremo di persona, okay. se vogliono saperne di più. Allora, senti, gli spazi, quindi l'abbiamo detto, anche quello degli spazi è un tema sul quale si dibatte da tantissimo tempo, perché comunque sia nelle scuole che nelle università che nella città gli spazi sono sempre più difficili e sono anche, fra l'altro, secondo noi, alla base dell'attività politica e culturale. Senza uno spazio è molto difficile incontrarsi e scambiare e creare relazioni. Vorrei cambiare un po' argomento perché i tempi non sono lunghissimi, stringono e vorrei mandare il vostro sguardo al futuro, e quindi in primis all'università. Cosa ne pensate? Cosa vi aspettate dal percorso post scuole medie e superiori? E soprattutto riguarda una cosa in particolare, al numero chiuso che oramai è presente in quasi tutti i corsi di laurea. Questa è una domanda un po' particolare, non so se ti senti di rispondere in modo personale, poi, o in modo collettivo, a nome del Cosmos. Sì, diciamo che in collettivo in realtà è un argomento su cui ancora analisi non ne abbiamo fatta, sicché forse meglio se rispondo a titolo personale. Vai. Comunque, dell'università cosa ci aspettiamo? Boh, nel senso che molti di noi ancora non sanno in realtà che università fare. Dobbiamo ancora decidere, cambiamo idea abbastanza velocemente. Comunque, è giusto. E no, del numero chiuso in realtà diciamo che in generale, ecco, le notizie ci vengono dai compagni magari del Colpol, così, non sono proprio delle migliori, perché, per dire, quelli che i problemi che abbiamo noi con l'alternanza ce l'hanno avuti loro con i tirocini, per dire. Quindi molte, diciamo, similitudini, molti elementi in comune su questo piano ci sono. E del numero chiuso, almeno io penso che sia non solo, cioè, come è fatto, sbagliato, non solo perché impedisce a certe persone di studiare quello che vogliono, quello che gli piace, ma forse ancora più grave è che è un tentativo, come posso dire, di organizzare la società fin da prima, di impostare la gente fin da prima che possa studiare, formarsi del tutto, già indirizzarla in modo da avere una società organizzata indipendentemente dalla volontà invece della gente, dei ragazzi, ecco. Sono abbastanza d'accordo su questo, sul fatto che il percorso, secondo me il percorso, questo tipo di impostazione inizia ben prima dell'università, inizia ben prima delle scuole superiori, è un po' un approccio generale alla formazione che ci porta poi a un modello elitario e a professionisti sempre più iperspecializzati, che però poi portano a varie problematiche, a uno scollamento da tutto il resto fondamentalmente, visto anche e soprattutto che l'offerta per tutti questi lavoratori ipertecnici di fatto non c'è, quindi poi ne vengono fuori delusioni personali e collettive veramente grosse. Mandando lo sguardo ancora un po' più là, invece dal lavoro, dal mondo del lavoro, ma dici boh. Giustamente. Il mondo del lavoro, vediamo. Vedremo. Ma, no, vabbè, possiamo far vedere. Insomma, non è, l'aspettativa non è così rosea, nel senso, vi dico, per il momento la mia idea era di quella, praticamente, in caso mi vada male, di fondare una comune, mi sembra forse l'ipotesi più fattibile, più plausibile. Sì. No, con quanto costa gli affitti a Firenze, forse anche quella... Vabbè, vabbè, in campagna, direi. In campagna, c'entra a Firenze, in campagna si può fare. Bene, no, questo... Insomma, io non vorrei demoralizzarti, ma se ora state combattendo, tenete conto, tieni conto e tenete conto che ci sarà da combattere. Sempre. Anche dopo, forse anche di più, i meccanismi non sono così diversi da quelli che affrontate a scuola, e quindi niente, noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Prima di lasciarci vorrei che magari ci presenti, cioè ci lasci i contatti del collettivo nel caso qualcuno volesse partecipare, se fate un'assemblea quando la fate, se è aperta oppure no a compagni e compagne, e magari anche se avete degli eventi prossimi. E vabbè, noi come collettivo ci si riunisce il mercoledì alle 3 in, vabbè, non posso più dire autogestita, a scuola, a scuola, diciamo a scuola, e vediamo, no, cos'altro? Il contatto, avete una pagina Facebook? Sì, abbiamo una sia una pagina Facebook che una pagina Instagram, che è Collettivo Cosmos Castelnuovo, la vedete, è bellina, c'è un disegno di Zero Calcare. Grande, Zero Calcare. E appuntamenti, a parte l'evento, il corteo del 9, ricordiamo, alle ore 9 in piazza Santa Maria Novella, sabato. Sì, e a parte il corteo, vediamo, vabbè, c'è un appuntamento, non riguarda solo noi, ma una rivendicazione direi ben più ampia. Comunque c'è sabato 16, invece sabato dopo a Roma, un corteo nazionale per il Kurdistan. E in realtà in questo momento il nostro lavoro come collettivo... purtroppo si deve concentrare anche molto sulla nostra scuola, perché non è una situazione quindi iniziative così più ampie al momento forse non ce ne sono, ecco. C'è il corteo di sabato, appunto, che è direi importante, comunque molto importante, assolutamente, sì. Quindi rilanciamo ancora, lo rilanceremo anche dopo, anche nei rassegni eventi, insomma ne parleremo a profusione, direi, di questo corteo. Benissimo, allora noi quello che ti possiamo dire è che i microfoni qua sono aperti e qualsiasi cosa vogliate dire basta uno squillo e grazie. Siamo disponibili. Un saluto a tutti i compagni e le compagne di Cosmos e a Santiago qua presente. Grazie. Grazie. Andiamo con un pezzaccio, ci vediamo dopo. Andiamo in Colombia. Faremo una breve introduzione prima di buttarvi in Colombia, certo, magari. Certo, perché dal Castelnuovo alla Colombia, insomma, c'è qualche migliaia di chilometri e mezzo, quindi probabilmente vi dovremo accompagnare. Pezzaccio Daughter con Fossa. Wombat. Said too much, said the wrong thing, remembering the image I was trying to project to you, cast an illusion, think I'm losing my head. Sometimes I feel, be what you want, I can be what you want, be what you want, I can be what you want. Somehow. Ooh. Reclaim the field. Reclaim the field. Reclaim the field. Reclaim the field. Reclaim the field. Reclaim the field. Dal 5 al 10 febbraio a Mondeggi Ben Comune, Fattoria Senza Padroni, Bagnoripoli. Reclaim the Fields dal 5 al 10 febbraio a Mondeggi, con una serata anche presso il CSA Next Emerson. Si tratta di cosa si tratta? Lo trovate comunque, un evento pubblicato da, diffuso da Mondeggi Bene Comune e da Jerome Larons. Le assemblee hanno luogo ogni anno in inverno. Generalmente queste assemblee hanno il compito di far riunire le persone attive all'interno delle cosiddette delle costellazioni di Reclaim the Fields, ma tutti naturalmente sono i benvenuti. L'ultima assemblea europea ha avuto luogo lo scorso febbraio 2018 nella regione TAM della Francia, è stata ospitata dal collettivo Racalette. E quindi niente, avete sentito anche lo spot, vi rimandiamo dal 5 al 10 febbraio fra Mondeggi e il Next Emerson. Nel frattempo abbiamo qui Giampaolo. Ciao, buonasera. Che naturalmente ci parla di Colombia. Esatto. Abbiamo fatto un'intervista, fra un po' ne sentirete uno spezzone, l'intervista completa sarà poi pubblicata come podcast su www.wombat.noblogs.org. Bene, buonasera a tutti. Di cosa parliamo nell'intervista? Bene, parliamo principalmente di questo progetto sviluppato da questo collettivo itinerante, un collettivo artistico e non c'è sociale, che produce materiale audiovisuale per, diciamo, far girare l'informazione. Loro hanno fatto diversi progetti di cui si parlerà oggi, e questo progetto con tre madri di questi ragazzi chiamati falsi positivi, sono all'incirca 7.000 casi di esecuzioni stragiudiziali in Colombia. La questione, per fare una sintesi in questo momento, è molto complicata, è molto confusa. È riniziata la caccia alle streghe. Da giugno è stato eletto un'altra volta un partito alla presidenza di estrema destra, per cui tutto l'apparato narco-paramilitare si è rinforzato molto. Il vuoto di potere lasciato in campagna per la guerriglia delle SFARC, che ha firmato la pace con lo Stato colombiano, certo una pace molto polemica che andrebbe approfondita e analizzata in profondità. Insomma, questo collettivo ci parlerà un po' del loro progetto. Ecco, sì, la pace. Io mi ricordo qualche anno fa, su tutte le prime pagine dei giornali, è scoppiata la pace in Colombia. È scoppiata. Notizia, da 60 anni non si vedeva una cosa del genere. Sì, eccola. Senti, ce l'ascoltiamo questo piccolo spezzone? Ascoltiamolo. Direi. Dai, della go. Proprio riguardo alla questione dei falsi positivi, si contano fino a 7.000 casi accertati. E se intanto ci potete spiegare il contesto nel quale è avvenuto questo massacro. Ok. Entonces, la questione de los falsos positivos, como sabemos, como nos lo han hecho saber también ustedes, hasta ahora hay oficialmente 7.000 casos. Nos gustaría pues que nos contaran, por lo que ustedes saben, en qué contexto se desarrollan estas ejecuciones y pues cuál es la historia en general. Bueno, la cifra de hecho es muy polémica. Actualmente no se sabe, la realidad es que no se sabe cuántos falsos positivos ha habido en Colombia. Ha habido distintas etapas, por así llamarlo. El primer caso que se cree oficialmente que está contemplado es de los años 80, por ejemplo. Desde los 80 hasta la época de los 2000 se hablaba de falsos positivos que tenían que ver más con campesinos. Eran campesinos en las mismas regiones, eran asesinados y a pocos kilómetros aparecían y el ejército los hacía aparecer como bajas en combate, pertenecientes o a grupos guerrilleros o a grupos más de narcotráfico. Esto toma un giro como a principios de los años 2000, disparándose en los años 2007, 2008 con el gobierno de Uribe, que fue cuando realmente más falsos positivos se contemplaron. Y ahí es cuando empieza un poco el falso positivo que se conoce más popularmente, que es cuando jóvenes que pertenecían a las periferias de la ciudad, generalmente gente que había sido ya desplazada por la propia violencia, son secuestrados a través de una red de reclutadores, que era población civil, que estaba totalmente cerca de sus hogares y conocidos por los propios jóvenes y familias, son reclutados y son asesinados y aparecen como a 500, 600, 800 kilómetros de sus hogares, pensando que como era gente pobre, gente que tenía necesidades, generalmente era mucho también, hubo muchos habitantes de calle, jóvenes, que fueron secuestrados bajo esta misma práctica y que eran asesinados. Por eso la cifra actualmente se desconoce. O sea, realmente no se sabe cuántos. Perfecto. Seguramente son mucho más de 7.000 que es la cifra oficial. Ok. Quindi c'è un grande contrasto, le cifre non sono ancora sicure, perché questo fenomeno dei falsi positivi ha un inizio, diciamo almeno ufficialmente, dagli anni 80. Cioè dagli anni 80 fino al 2000 si parla di falsi positivi nelle zone rurali, principalmente contadini. E queste esecuzioni stragiudiziarie erano fatte ovviamente dall'esercito, ma anche dall'esercito, e quindi... diciamo facevano queste esecuzioni, presentavano i corpi come morti in combattimento, NN, quindi senza identità. Poi li facevano passare come guerriglieri o come narcotrafficanti. Questo fenomeno prende un giro, una svolta nel 2007 con il governo di Uribe, e quindi il modus operandi anche cambia, non sono più soltanto contadini, ma sono anche giovani delle periferie di Bogotà e delle altre città, che sono le regioni, cioè le zone più povere. Quindi c'è una rete di reclutatori che cercano queste persone che sono piuttosto bisognose dal punto di vista economico. Li adescavano attraverso... il lavoro, per esempio, gli dicevano se erano interessati a andare a raccogliere caffè o a eseguire certi lavori a 600-700 chilometri dalla città, e poi una volta arrivati in quelle zone li ammazzavano, li facevano passare per l'appunto come guerriglieri. Normalmente per l'appunto venivano presi di mira queste persone di questi quartieri, perché erano quelle, diciamo, povere, che magari nessuno avrebbe rivendicato la loro morte, perché comunque sono delle zone che hanno delle problematiche sociali non indifferenti. Da una parte questo, da una parte c'era anche una sorta di pulizia sociale, quindi prendevano di mira magari anche gli abitanti di strada, per esempio. Quindi per questo motivo le cifre non sono ancora chiare. Si documentano 7.000 casi, però si pensa che siano molti, molti di più. Bene, quali sono le radici di questo massacro, almeno quelle ufficiali? Ok, i perché? Perché come nacen estos falsos positivos, con che obiettivo? ¿Cuál es la razón? Hay una directiva. La razón era que tenían que subir las cifras en el combate. De alguna manera el ejército necesitaba mejorar esas cifras de combate, que están matando a los guerrilleros, y demostrar a todo el país que estaban ganando la guerra. Entonces, para demostrar que estaban ganando la guerra necesitaban que aparecieran más bajas. Además, hay una serie de directivas que es por cada uno de los cuerpos que mataban, asesinaban. Ellos cobraban primas, tenían periodos vacacionales, recibían una serie de bonificaciones. Okay. Y emitidas por el propio Ministerio de Defensa, que de hecho es todo legal, uno puede consultar estas directivas. Ok, por el Ministerio, perfecto. Sí, allora, uno degli obiettivi principali era far salire le cifre dei morti in combattimento, quindi di guerriglieri. Per cui l'esercito doveva dimostrare alla società colombiana che stavano vincendo la guerra, no? Quindi per questo motivo le alte sfere militari davano delle indicazioni che ci sarebbero state dei bonus, insomma, dei premi in soldi o anche in ferie per ogni corpo di guerrigliero caduto in combattimento. queste bonificazioni o comunque queste premiazioni erano pubbliche, si possono anche vedere nelle pagine internet del Ministero della Difesa, ed è questo. Ritenete che ci sia un'influenza internazionale in questo tipo di azioni e soprattutto, vabbè, intanto questo. Bueno, ustedes piensan que hay un conflicto de interés y que haya un aporte por parte de naciones extranjeras. Al caso de los falsos positivos, sí. De hecho, hay varias organizaciones como Human Rights Watch y demás que lo han demostrado. Estados Unidos daba dinero al Estado colombiano sabiendo de la existencia de los falsos positivos y destinando dinero directamente al Ministerio de Defensa. De hecho, hay mucho documento que se ha desclasificado ahora de la CIA que demuestra que ellos lo sabían, que desde los años 90 estaba sucediendo el asesinato por parte de las fuerzas del Estado de jóvenes que no tenían nada que ver con la guerra, que aún así seguía dando dinero para esto. Para el tema de las bonificaciones, parte de ese dinero salía del dinero que llegaba por parte de Estados Unidos. Ok. Sì, sicuramente ci sono organizzazioni straniere coinvolte. C'è un grande coinvolgimento anche dagli Stati Uniti d'America, che passavano dei soldi direttamente allo Stato colombiano e anche al Ministero di Difesa. Ci sono già dei documenti da parte della CIA che sono documenti declassificati, quindi di dominio pubblico, che parlano per l'appunto di questi temi, delle bonificazioni, dei bonus in forma di liquido, di soldi per combattere il comunismo, per ogni testa di guerrigliero. Riguardo alle ricerche, come le effettuate e dove trovate la documentazione per poi portare avanti le inchieste? Come è il processo di investigazione? De donde ustedes han... Bueno, sì, come è il processo, los documentos, de donde lo sacan? Bueno, ahí es un poco complicado, toca ir rastreando poco a poco, porque la realidad es que no hay, como si dijéramos, algo que se ha publicado, o sea, a pesar de la cantidad de material que hay, no hay nada publicado en ese sentido como un buen estudio de investigación sobre los falsos positivos, entonces toca ir poquito a poco. Hay información que han ido produciendo las organizaciones, como el CINEP, otras organizaciones como el MOVICE dentro de Colombia, que han producido documentos muy elaborados. Hay parte de organizaciones internacionales, como nombraba antes Human Rights Watch, que también está produciendo, y también hay un trabajo muy interesante que producen las propias familias. Al final, quien tiene mucha información de todo lo que está sucediendo, por ejemplo, son las propias madres que están haciendo la búsqueda exhaustiva de la verdad de lo que sucedió con sus hijos. También hay mucha prueba en archivo judicial. Nosotros hemos tenido acceso a los propios juicios que ha habido en Colombia sobre los falsos positivos, y ahí se produce mucho. Y también, paradójicamente, uno de los mejores lugares para encontrar información es la propia Fiscalía de Colombia o el propio Ministerio, que pensando, no sé muy bien si creían que no hacían nada malo, pero realmente publicaron mucho de estos datos. Es una forma muy accesible en Internet, puedes encontrar mucha de la información que nosotros en la que trabajamos. Y también, sobre todo, recorriendo los territorios y hablando con la gente que vivió eso, que encontró los cuerpos y que es los que te pueden dar un testimonio muy real de lo que está sucediendo en Colombia ahora. Ok. Bene, in realtà la parte dell'investigazione è molto complessa, perché anche se ci sono documenti pubblici, non è stato mai fatto uno studio di investigazione serio riguardo a questo fenomeno. Nonostante c'è molto materiale che è stato svolto, che è stato fatto, creato e connesso ad organizzazioni come Movise, che hanno fatto dei documenti molto elaborati, però il lavoro, diciamo, più importante è il nostro lavoro di campo, quindi le narrazioni delle differenti, cioè delle diverse famiglie che hanno subito queste violenze, queste aggressioni nei territori di conflitto, no? Comunque, paradossalmente, ci sono molte prove che uno può trovare nell'archivio di Stato, nell'archivio del Fisco e anche nelle pagine del Ministero cioè dello stesso Ministero di Difesa. Comunque gran parte per l'appunto della nostra investigazione si basa nel lavoro di campo e quindi nel percorrere questi territori in conflitto dove i popoli hanno subito queste aggressioni e sono state anche vittime e quindi testimoni diretti di questi crimini di Stato. Allora, avete sentito? Sono una piccola parte, era un abbucco, vediamo se ci cascate. Ci sarà il podcast completo, sarà un'intervista di circa 45 minuti, a brevissimo, sul blog www.wombat.noblogs.org. Ringraziamo Giampaolo, che è qui accanto, che ci ha aiutato, anzi si può dire che ha organizzato l'intervista. Fra l'altro te andrai a trovarli. Sì, esatto. Prestissimo. Sì, fra due giorni. Fra due giorni, beh, prestissimissimo allora. E quindi sarà anche una buona occasione per continuare una corrispondenza con la terra sudamericana. Assolutamente d'accordo. Quindi niente, sentiremo ancora la sua voce su Radio Wombat. Andiamo punto, con Pezzaccio? Andiamo con Pezzaccio, dai. Pezzaccio a tema Colombia. Dai, Dengue, Dengue, Dengue. Prima di andare sull'urlo, vai, ci sta. Sì, poi andiamo con l'urlo. E due parole sull'urlo e poi vi lasciamo in compagnia di Tuho. Wombat, Wombat. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. Yuri! Vai che comincia! Lo sentite l'inconfondibile suono dei Balcani? Il richiamo di Tuco. Tra un po' sentirete anche la suadente voce di Tuco, che quest'oggi parla di Albania e Bosnia. Nella prima parte tratta appunto l'Albania, tutto quello che sta succedendo nei vari moti. E in Bosnia... In Bosnia ci tiene a fare una precisazione, ovvero la faccio io al posto suo. Quando parla di RS, lui intende Repubblica Spraska. Che sarebbe? Che sarebbe, ce lo spiegherà Tuco durante la puntata. Via, lasciamo i microfoni a Tuco. Dai, con l'urlo. E buonasera Wombati e Wombattesi, eccoci qua a una nuova puntata di Fuoco alle Polveri e quindi anche dell'urlo, ultimamente sempre in prima linea. E parliamo, a proposito di prima linea, dell'Albania, che ultimamente è sempre sull'urlo, ma questa volta non legato a Edi Rama e gli studenti che lo contestano, ma a Edi Rama e il caso della nave di Ciotti. È infatti vero che quando, se ben ricordate, c'è stato il caso di Ciotti e delle 137 persone che rimaste sulla nave per giorni senza poter scendere, alla fine l'accordo trovato aveva visto anche il nome spuntare anche il nome dell'Albania come ospite, come ospitante, insomma, di una quota di migranti. Ebbene, questa è una fake news, e anzi è stata una... almeno dice l'articolo, l'articolo di Nicola Pedrazzi, è stato proprio un inquietante caso di social diplomazia. Allora, il giornalista ha, per fare questo, ripercorso tutta la storia di tutti i passaggi dei ricollocamenti dei migranti, cercando di capire dove l'Albania fosse entrata in gioco, non ha trovato nessun riscontro. In realtà sono state parole, mezze parole poi riportate dai giornali, ma mai l'Albania ha veramente accettato di prendere questi richiedenti asilo. La domanda che si pone il giornalista è anche: è possibile chiedere asilo in Albania? Sì, è possibile chiedere in Albania. L'Albania ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 1951, quindi il suo quadro normativo si adatta all'acquis europeo, cioè a come funziona poi il diritto europeo, facendo parte avendo firmato la Convenzione di Ginevra. Stando alla legge 121 del 2014, entro inoltre 15 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, lo Stato albanese deve informare il richiedente circa i suoi diritti. Quindi questa è un po' la legislazione base. C'è tutta un'analisi di come è messa la situazione di accoglienza e proprio tutto il sistema di richiedenza asilo Albania, che c'è. Funziona, ma molto giovani e ha delle fragilità molto grandi. Tornando in sintesi al caso 18, qualora su base volontaria 20 persone avessero accettato di essere trasferite in Albania, la loro domanda di asilo avrebbe forse incontrato una cornice giuridica di stampo europeo, ma sarebbe stata processata da un sistema giovane e inesperto, appunto quello albanese, di cui la Commissione europea monitora i progressi ma certifica al contempo la sua fragilità. Infatti anche questi dovrebbero essere presi in considerazione in una politica seria se si deve ricollocare o spostare, appunto, ahimè, i migranti. È quindi, insomma, per arrivare alla notizia, al succo della notizia, è un inquietante caso di social diplomazia. Nessuna persona scesa dalla 18 è mai giunta in Albania, perché senza consenso degli interessati quella soluzione era fuori dalla legalità, cioè doveva essere un rimpatrio volontario, uno spostamento volontario, perché nessuno dei due governi ha dimostrato una volontà politica che andasse oltre annunci funzionali al consenso, perché come è emerso dai racconti rimasti lungo il tragitto, appunto, che ripercorre l'articolo, l'obiettivo di quelle persone non è mai stata l'Italia, ma la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Germania, paesi ricchi nei quali raggiungono le loro famiglie. E questa cosa noi la sappiamo fin da subito. Nessuno è arrivato in Albania perché nella realtà delle cose quella proposta non aveva alcun senso. Nella sua dimensione italo-albanese, il caso di Ciotti ha combinato tre stadi di fake news, quindi in definitiva giuridico, giuridica, politica e umana. Un rancido mix di mistificazioni venduto online anche dalla Farnesina stessa. Un fatto questo particolarmente grave perché anche al tempo di internet le istituzioni dello Stato dovrebbero dimostrarsi di non utilizzarlo e diffondere fake news, come invece fa tutti i giorni il ministro Salvini, come lo fa tutti i giorni il ministro del lavoro Di Maio, eccetera eccetera. Quindi in realtà questa cosa ci stupisce fino a un certo punto, però dovrebbe essere, insomma, un ministero impermeabile alla manipolazione dei politici di turno e soprattutto alla propaganda di un governo estero, cioè l'Albania in questo caso. Cioè Edi Rama ha fatto propaganda sul caso di Ciotti, come da noi, ministro Salvini. È importante dirlo, sulla nave 18 non hanno preso accordi due paesi amici, ma due staff di comunicazione che hanno concordato timing e contenuti delle loro uscite. I social media manager di Matteo Salvini e di Rama e dei loro accoliti ci hanno preso per la collottola e ci hanno chiuso nella vasca delle palline a condividere e commentare articoli come, appunto, quelli che leggiamo tutti i giorni. Lo stesso avviene oggi, quando nella migliore delle ipotesi condividiamo l'hashtag porti aperti, dimenticandoci che i porti italiani non sono mai stati chiusi, e quindi amplificando il messaggio e sdoganando la stortura legale di chi fregiamo di contrastare. Attendiamo pure l'eventuale epilogo giudiziario, ma la nave 18 ci ha insegnato tutto quello che poteva sul momento vissuto delle nostre democrazie, Italia, italiane e albanesi siano. Un'altra notizia invece ci arriva invece dalla Bosnia. Notizie brutte questa, non che quelle di prima fossero belle. La città di Prijedor, nella Bosnia settentrionale, sul cui territorio e nei territori limitrofi vennero rinvenute decine di fosse comuni, è nuovamente protagonista di una mossa sconcertante del governo locale. E praticamente la manca dello sviluppo degli investimenti della RS il 30 gennaio di quest'anno, notizia tra l'altro confermata dalla direttrice del Vusnic e trasmessa dai vari giornali del 5 novembre scorso attraverso la borsa di Luca, venderà un pacchetto di azioni delle miniere di ferro Ljubija, appunto della città di Prijedor. Vendendo il 65% del capitale statale delle miniere, il governo dell'RS vende complessivamente anche 4 fosse comuni che saranno di proprietà del futuro proprietario di maggioranza. Ha reso noto appunto questa cosa il Mirsad Duratovic, presidente dell'associazione detenuti di campi di concentramento. L'associazione si chiama Prijedor 92, in un'intervista rilasciata lo scorso 6 gennaio al quotidiano bosniaco Avaz. Le associazioni che si occupano dei familiari della memoria delle migliaia di vittime della pulizia etnica in quest'area della Bosnia temono che i nuovi proprietari non tutelino in modo adeguato questi luoghi della memoria. Per questo motivo l'associazione dei detenuti dei campi di concentramento, la Prijedor 92 come vi dicevo, ha inviato agli indirizzi delle istituzioni della Bosnia e Herzegovina e dei potenziali acquirenti la richiesta di consentire l'accesso a queste fosse comuni per poter continuare nelle operazioni di riesumazione dei corpi di chi vi è stato sepolto, cosa che non è facile, che è stata impedita finora sia dai precedenti proprietari che si ha paura che lo faranno anche i nuovi, perché poi è un'azione anche politico-etnica, insomma sappiamo, abbiamo parlato diverse volte qui ai microfoni dell'Ura dei Balcani, della situazione confusa della Bosnia-Herzegovina e delle possibili rotture che ci sono, visto che già ci sono ora attivamente, con questa presidenza tripartita che non si mette d'accordo, che è stata poco fa a Bruxelles e non è stato d'accordo veramente su niente. L'attuale direzione della miniera RZR Ljubljana già in passato ha dato l'ordine di tagliare le strade d'accesso verso le fosse comuni, ha poi impedito di raggiungere il luogo con veicoli di ogni tipo, un luogo dove si sta scavando ancora e dove gli esperti stanno ritrovando resti umani da identificare per ridurre la lista degli scomparsi. Le ricerche nelle fosse di Tomasica vanno avanti dall'anno della sua scoperta e non sono ancora terminate. I familiari dei sopravvissuti quindi temono che, come in passato, anche il nuovo proprietario potrebbe impedire gli accessi, appunto, come vi dicevo. Non è tutto, purtroppo. Le ricerche continuano in altri siti facenti parte della proprietà delle miniere di Ljubljana, attualmente in vendita, nelle aree di Jakarina Kosa, Ljubljana e Rudnik, tutte nell'area nord-ovest di Prijedor. Sono state individuate altre fosse comuni con resti umani di croati bosniaci e bosniacchi uccisi dall'esercito serbo-bosniaco del periodo 92-95. Alcune sono state seppur parzialmente ispezionate, mentre altre risultano ancora irraggiungibili ai team dei forensi, sempre a causa delle forti ostilità e resistenze da parte della direzione delle miniere, con la complicità del comune di Prijedor e delle altre istituzioni competenti dell'entità RS. Tutto questo nonostante un numero di circa 800 civili dell'area a tutt'oggi risulta ancora scomparso, cioè gente del posto risulta scomparsa, 800 persone, e se ne impedisce la ricerca all'interno di queste fosse. Intanto lettere di protesta, appunto, diciamo, sono state mandate. Già c'è stata un'altra interessante manifestazione, diciamo, perché per il giorno della Repubblica, il 9 gennaio, sono state spedite a tutti i parlamentari, a tutti i giornali, sono state spedite foto con le foto delle ossa, con delle ossa delle fosse comuni, accompagnate con il testo: se celebrate il giorno dell'RS, della Repubblica Sociale, ricordatevi che è stata costruita su queste ossa. Una risposta è arrivata, e questo fa capire il clima, è arrivata la conduttrice di uno dei principali notiziari TV dell'RPRS, agli indirizzi delle varie istituzioni dell'RS ieri sono arrivate le foto di alcune ossa per le quali si dice che sono le fondamenta della Repubblica Spraska, RS Repubblica Spraska, non Repubblica Sociale, come ho detto prima. Non possiamo che contestare che un contenuto di questo genere offendano la Repubblica Spraska e l'intero popolo serbo. Capito com'è la risposta? La Bosnia-Herzegovina ha sul proprio territorio la presenza di 750 fosse comuni. E spesso succede all'interno di questa privatizzazione, ma soprattutto di questa lotta etnica, politico-etnica, non ci si può accedere. Con questo è tutto. Vi lascio al pezzo che ho scelto per voi oggi. Ci sentiamo settimana prossima. Viva Fuoco alle Polveri, viva Radio Wombat e Yuri! We'll be right back. Eccoci qua. Sul gran finale. Beh, non si è parlato di cose molto molto allegre. È vero, ci vuole un po' di musica rilassante. Siamo in chiusura, Grande Lago. Siamo in chiusura, anche siamo per in chiusura. Questo. È vero, io una cosa la voglio dire, anzi due. Uno è la maglietta Childan, sti cazzi. Non ve lo volevo dire, ma le magliette Childan sono anche quelle Wombat. Abbiamo scoperto, abbiamo fatto questa grandissima scoperta, molto brutta, che le nostre magliette Wombat sono stampate su magliette Childan, che dicesi essere dei pezzi di merda. E dicesi essere dei pezzi di merda. Non solo, però noi utilizziamo le Fruit e Gildan, c'è un po' di tutte e due, quindi nel caso che non vogliate la Gildan, noi vi capiamo, potete prendere quelle Fruit, le Fruit, non mi ricordo com'è il nome completo, vabbè, comunque niente, ci sono le magliette Wombat, le abbiamo ristampate, sono disponibili, magliette dei vari colori con sempre il logo, la solita stampa, abbiamo anche gli zainettini neri e le borsette nere. Questo è, le marchette fa. Sì, si fanno le marchette, ne approfittiamo. Dai, l'ultima marchetta che faccio è, però è una marchetta che ci vuole, è a Mondeggi. Riguardo a Mondeggi, stanno comprando un stanno cercando di comprare un trattore, hanno lanciato una campagna di crowdfunding costosissimo, sì, fra l'altro bisogna raggiungere la cifra di 40.000 euro. Per ora ne sono stati raccolti circa poco meno di 2.000 euro e se volete contribuire dovete andare a cercare fondamentalmente http://buonacausa.org cause Mondeggi e poi c'è tutta un'altra serie di letterine strane, ma comunque basterebbe questo per indirizzarvi, o comunque potete andare sulla pagina Facebook di Mondeggi, di Jerome La Ronza e via discorrendo se non vi è ancora arrivata la mail. Detto questo, Fuoco alle Polveri chiude, vi lasciamo. Tra poco ci sarà la rassegna eventi. Rassegna eventi. Alle 21.30 a Coccoli al Silicio. Noi ci sentiamo lunedì prossimo. Viva. Ci lasci con un pezzo? No, vediamo qua. Ci salutiamo e via. Ciao, bene, belli. Bene. A presto, ciao. Fuoco alle Polveri. Go Halle Paul Berry. Radio Bomba.